6. La scritta in bagno. Da qualche giorno Alexandra parla con alcuni ragazzi della terza G, soprattutto con Emanuele. Ma con Andrea no. Andrea non la guarda mai. Un pomeriggio, a ricreazione, Tozzi e De Belli entrano in classe e urlano. Venite! Alexandra ha scritto una cosa sulla porta del bagno dei maschi! Tutti corrono davanti alla porta. C'è scritto: io amo tutti i ragazzi della terza G. Alexandra. I ragazzi ridono, ma Alexandra è molto arrabbiata. Io non ho scritto questa scemenza! Non scrivo così male! Siete stati voi! Ma che dici? Sei una bugiarda! Urla Tozzi. E De Belli? Torna al tuo paese, rumena! Smettetela! Urla Giovanna. Questo è un brutto scherzo! E poi quella non è la scrittura di Alexandra! E poi ad Alexandra. Non ti preoccupare! Tutti conosciamo Tozzi e De Belli. Sono due bugiardi! Tozzi e De Belli vanno via. In classe i ragazzi non sanno cosa dire. Appena finisce la scuola, Alexandra corre a casa.